Capitolo 19. Il testamento di Emi. Mentre in casa avvenivano queste cose, la vita era ben dura per Emi presso la zia March. Ella soffriva molto dell'esilio e per la prima volta in vita sua si rendeva conto del bene che le volevano in casa e delle carezze che avevano tutti per lei. La zia March le carezze non le faceva, non le ammetteva. La sua intenzione però era di essere buona, perché quella bimba le piaceva per le sue belle maniere e perché la zia, nel suo vecchio cuore, aveva un debole per i figli di suo nipote, ma non riteneva opportuno dimostrarlo. E faceva veramente ciò che poteva per far felice Emi, ma ahimè, quanto si ingannava sul modo. Certi vecchi si mantengono giovani di cuore, malgrado le rughe e i capelli bianchi, e sanno comprendere i piccoli dolori e le piccole gioie dei ragazzi, e con essi si trovano a loro agio. Costoro sanno presentare le lezioni della loro saggezza sotto un aspetto piacevole, e la loro amicizia per la gioventù viene contraccambiata. Ma la zia March quel dono non lo possedeva. E a forza di proibizioni, di ordini, di maniere severe e di lunghi discorsi poco ameni, riusciva mortalmente noiosa alla povera Emi. Avendola trovata più dolce e più docile delle sorelle, la vecchia signora si sentiva in dovere di cercare, per quanto poteva, di combattere il cattivo effetto della soverchia libertà che godeva Emi in casa propria e dell'eccessiva dolcezza con cui la trattavano. Si mise perciò a educarla come era stata educata lei stessa 60 anni prima, e tale sistema aveva sulla ragazza un effetto deprimente. Si sentiva come una mosca nella tela di un ragno, senza pietà. Tutte le mattine lavare le tazze e pulire le vecchie posate, la grossa teiera d'argento e i bicchieri, facendoli lustrare come specchi. Poi spolverare la stanza, e questa era una faccenda ben fastidiosa. Non una macchia, non un granello di polvere sfuggiva all'occhio della zia. E tutti i mobili avevano i piedi ad artiglio di leone, ed erano assai adorni di intagli, per cui non erano mai spolverati abbastanza. Poi dar da mangiare a Polly, pettinare il canino, far le scale su e giù una dozzina di volte, prendere un oggetto e portare un ordine, perché la vecchia signora era molto zoppa e di rado abbandonava il seggiolone. Dopo queste faccende, Amy aveva le lezioni e i compiti. Insomma, ogni giorno doveva mettere alla prova tutte le virtù che possedeva. Poi le era concessa un'ora per fare un po' di moto e svagarsi, e quell'ora se la godeva davvero. Ogni giorno veniva Lori e tanto faceva la corte alla vecchia zia che Amy otteneva il permesso di uscire con lui, a piedi o in carrozza, e si divertivano un mondo. Dopo pranzo le toccava leggere ad alta voce, oppure aveva da star cheta perché la zia si addormentava. Questo di solito avveniva dopo le prime pagine e il pisolino durava un'oretta. Poi veniva il lavoro di rammendo, gli orli da fare ai tovaglioli e così fino a sera Emi cuciva, buona buona di fuori e piena internamente di impeti ribelli. E dopo si poteva svagare a modo suo fino all'ora del tè. Peggio di tutto era la serata. La zia cominciava certi racconti interminabili e così noiosi che Emi non vedeva l'ora di andare a letto a piangere sul proprio destino crudele, ma per lo più le lacrime venivano anche prima. Se non ci fossero stati Lori e la vecchia Esther, la cameriera, Emi sentiva che non ce l'avrebbe fatta a tirare avanti con quella vita. Bastava il pappagallo da solo a farla disperare. Il maligno uccellaccio si era accorto subito che la ragazza non era una sua ammiratrice e per vendicarsi le faceva tutti i dispetti possibili. Le tirava i capelli quando l'aveva portata. Per farla arrabbiare rovesciava il pane e il latte appena lei aveva finito di fare pulizia alla gabbia. Beccava Mop per farlo guaire quando Madama dormiva. Ingiuriava Amy davanti alla gente, insomma si comportava in tutto e per tutto come una vecchia bestiaccia insopportabile. Non meno insopportabile era il cane, grasso, vecchio e stizzoso, che quando lei gli faceva la toletta non smetteva un momento di protestare, ringhiando minacciosamente. Quando voleva qualcosa da mangiare, si metteva con le quattro zampe all'aria e con un'espressione idiota, il che accadeva in media una dozzina di volte al giorno. La cuoca poi aveva un caratteraccio, il vecchio cocchiere era sordo, la sola persona che dava un po' retta alla ragazza era Esther. Esther era francese e stava con Madame, come la chiamava lei, da molti anni. Era un po' la tiranna della vecchia signora che senza di lei non poteva stare. Il suo vero nome era Estelle, ma la zia Marcia aveva preteso che lo cambiasse e lei aveva acconsentito, purché non le facesse cambiare religione. Si affezionò subito a Mademoiselle e quando metteva in ordine i merletti di Madame la faceva divertire molto raccontandole la sua vita di un tempo in Francia. Le permetteva poi di girare per la grande casa ed esaminare tanti oggetti curiosi e graziosi conservati nei grandi armadi e nei vecchi cassoni. La zia March era come la gazza ladra e nascondeva tutto. La più grande curiosità di Amy era un mobile indiano, tutto a tiretti, come una piccionaia e a ripostigli col segreto, che conteneva oggetti d'ornamento d'ogni sorta, alcuni preziosi, altri semplicemente curiosi e tutti più o meno antichi. Ad Amy piaceva tanto guardare quegli oggetti e rimetterli in ordine, specialmente gli astucci delle gioie che nei loro incastri rivestiti di velluto accoglievano gli ornamenti femminili che erano stati di moda mezzo secolo prima. C'era la parure, come diceva Esther, di granate con la quale la zia aveva fatto la sua prima comparsa in società. C'erano le perle donatele dal padre quando si era sposata, i diamanti del fidanzato e poi anelli e spille di lutto di ambra nera e certi curiosi medaglioni con dentro miniature di amici defunti e salici piangenti fatti di capelli e certi piccoli braccialetti della bambina di zia March. E il grosso orologio a ripetizione dello zio con la catena e il sigillo rosso col quale avevano giocato tante mani di bimbi. L'anello nuziale della zia, ormai troppo stretto per le sue dita ingrossate, ma conservato religiosamente in una scatola da solo come la cosa più preziosa di tutte. Cosa preferireste, mademoiselle, se poteste scegliere qui a piacer vostro? Domandava Esther, che stava sempre vicina a sorvegliare e poi a chiudere sotto chiave i tesori. Oh, più di tutto i diamanti mi piacerebbero, ma non ci sono collane di diamanti e a me le collane piacciono tanto, stanno così bene. Se potessi scegliere questa, disse la ragazza guardandone con ammirazione una che era fatta di grani d'oro e di ebano alternati e dalla quale pendeva una grossa crocetta fatta delle stesse materie. Anch'io ne sono innamorata di quella, disse Esther, guardando con ammirazione il bell'oggetto. Ma per me non è una collana, è un rosario, e come rosario l'adoprerei io che sono cattolica. Sarebbe come quella corona di grani di legno dal profumo così buono che sta sempre appesa all'angolo del vostro specchio? Appunto, serve per pregare. I santi sarebbero molto contenti se un rosario bello come questo si adoperasse per dire le orazioni e non come un bijou, un ornamento della vanità. Vedo che la preghiera per voi, Esther, è un gran conforto. Quando andate su in camera vostra a pregare, dopo ritornate già tranquilla e soddisfatta. Vorrei averlo anch'io, quel conforto. Mademoiselle, se voi foste cattolica lo avreste anche voi, ma siccome questo non deve essere, vi farebbe però un gran bene tutti i giorni stare un po' sola a meditare e a pregare, come faceva quella buona signora dove stavo io, prima di venire con Madame. Aveva una cappelletta e vi trovava una vera consolazione ai suoi grandi dolori. Non farei bene anch'io a fare così? Domandò Amy. In quella solitudine la sentiva il bisogno di un aiuto morale. Il libricino della mamma, adesso che non c'era Betta a ricordarglielo, era un po' lasciato da parte. Sarebbe una cosa bella e buona, e io sarò ben contenta di prepararvi il piccolo spogliatoio se volete. Non dite niente a Madame. Quando lei dorme, voi andate là e ci state un po' sola, a rivolgere in mente pensieri buoni e a pregare il buon Dio che vi conservi la sorellina. Esther era un'anima veramente pia, e il consiglio era proprio sincero. Il suo cuore affettuoso partecipava vivamente all'ansietà delle tre sorelle. La sua idea piacque molto ad Amy, che le permise di prepararle un piccolo spogliatoio adiacente alla sua camera. Era convinta che le avrebbe fatto bene. Intanto, mentre rimetteva a posto con cura il bel rosario e chiudeva ad uno gli astucci e le scatole, diceva: «Chissà dove andranno a finire tutte queste belle cose alla morte della zia». «A voi quattro? Io lo so. Madame ha fiducia in me». E le ho fatto da testimonio al suo testamento, sicuro? Disse Esther sottovoce, sorridendo. Oh, bello, ma io vorrei che ce le desse ora. Perché procrastinare tanto? Osservò Amy con un'ultima occhiata ai diamanti e sillabando a fatica la parola difficile. È troppo presto, alla vostra età, per portare quelle cose lì. La prima di voi che si fidanza avrà le perle. Madame lo ha detto. E io poi ho l'idea che l'anellino con le turchesi sarà per voi, adesso, quando tornerete a casa, perché Madame è contenta della vostra condotta e delle vostre maniere. Credete? Oh, allora voglio essere un agnellino per avere quel bell'anello. È molto più bello, ma molto, sapete, di quello di Kitty Bryant. Cara, quella zia March, le voglio bene, dopo tutto. Disse Amy, provandosi l'anello raggiante in volto e ben decisa a meritarselo. Da quel giorno fu addirittura un modello d'obbedienza. La vecchia signora si meravigliava e si compiaceva dei risultati della sua educazione. Esther ammobiliò lo spogliatoio con un tavolinetto davanti al quale pose un poggiapiedi e sul muro un quadro prendendolo in una delle stanze non abitate. Non lo credeva di gran valore e lo scelse unicamente perché le pareva appropriato. Era sicura che Madame non se ne sarebbe mai accorta e in ogni caso non avrebbe detto nulla. In realtà il quadro era un'ottima copia di capolavoro famoso. L'occhio d'artista di Amy non si stancava mai di ammirare il bel viso di quella Madonna e il suo cuore si riempiva di tenerezza e di buoni pensieri. Sul tavolino ella pose il Vecchio Testamento e il libro degli inni, con un vaso che era sempre ben guarnito dei più bei fiori che le portava Lori. Ogni giorno la ragazza si appartava là, a rivolgere nella mente pensieri buoni e a pregare per Beth. Esther le aveva anche dato un rosario coi grani neri e la crocetta d'argento, ma Amy lo tenne appeso senza farne uso perché dubitava che andasse bene per le preghiere della religione protestante. In tutto questo Amy era perfettamente sincera. Portata via dalla sicurezza del suo nido e lasciata lì sola, sentiva così dolorosamente il bisogno di una mano affezionata a cui tenersi con la sua, che per istinto si volgeva al divino, il cui amore avvolge di tanta tenerezza le piccole anime dei suoi giovani figli. Le mancava per capire e per governarsi l'aiuto di sua madre, ma le era stato insegnato a chi rivolgersi e faceva del suo meglio per trovare la buona via e mettercisi con fede. Ma Amy era una pellegrina troppo giovane e in quei giorni il suo fardello le pareva molto greve. Cercava di dimenticare se stessa e di stare allegra e trovare la sua soddisfazione nel far bene, sebbene là non ci fosse nessuno che la lodasse. Nel suo primo sforzo per essere molto, molto buona, decise di fare anche lei il suo testamento, come la zia March. Per modo che, se per caso fosse caduta malata o fosse morta, le cose che possedeva andassero distribuite con giustizia e generosità. Però era una gran pena il solo pensiero di dover abbandonare i suoi piccoli tesori, non meno preziosi per lei che i gioielli della vecchia zia. In una delle sue ore di libertà e di svago, ella stese l'importante documento nel miglior modo che seppe, con qualche aiuto di Esther per i termini legali. Quando la brava donna ebbe messo la sua firma, Amy si sentì alleggerita da un peso e tenne da parte lo scritto per farlo vedere a Lori, che doveva essere il secondo testimonio. Era una giornata di pioggia ed ella, salendo al piano di sopra, per andare a trastullarsi un po' in una delle grandi stanze, portò Seco Polly per compagnia. Lassù c'era un grande armadio pieno di costumi di foggie antiche, coi quali Amy era autorizzata a giocare, e si divertiva molto a indossare i broccati scoloriti e passeggiare innanzi e indietro davanti al grande specchio con inchini cerimoniosi, tirandosi appresso negli ampi giri lo strascico che col suo fruscio accarezzava piacevolmente l'orecchio. Tanto era assorta quel giorno in questo divertimento che non udì il campanello quando arrivò Lori e non si accorse del suo volto che faceva capolino a spiarla mentre lei si sventolava girando attorno con molta grazia e dignità il capo avvolto in un turbante violetto che faceva uno strano contrasto col broccato azzurro della veste e la gonna gialla trapunta. Doveva fare attenzione camminando perché aveva i tacchi alti. Era buffo, raccontò poi Lori a Joe, vederla con quei colori strepitosi indosso incedere a piccoli passi con Polly che la seguiva da presso, tutto orgoglioso anche lui e fermandosi ogni tanto per esclamare: «Come siamo belli! Passa via, brutto muso! Fa silenzio! Un bacio, tesoro!» E infine una gran risata sghignazzante. Lori trattenne a stento la sua, non voleva offendere la maestà di Amy. Dopo qualche momento bussò per entrare e fu accolto con un sorriso pieno di grazia. Siediti e aspetta che metta via questa roba. Devo consultarti per una faccenda molto seria, gli disse Amy, dopo che gli abbia mostrato i suoi splendori e cacciato in un angolo Polly. Quell'animale è l'afflizione della mia vita, disse poi, mentre disfaceva il turbante monumentale e Lori sedeva di traverso sopra una seggiola. Ieri la zia dormiva e io cercavo di star muta come un pesce. Eccoti, Polly, che mi si mette a strillare e a battere le ali dentro la gabbia. Vado per aprirgliela e ci trovo un grosso ragno. Lo scaccio fuori e mi si va a nascondere sotto la libreria. Polly dietro, viene anche lui a guardare là sotto, ad ammiccare con un occhio e a dire con quel suo linguaggio buffo: Vieni fuori, tesoro, facciamo insieme due passi. Come fare a non ridere? Polly allora si mette a bestemmiare e mi sveglia la zia che ci dà una lavata di testa a tutti e due. È venuto fuori il ragno a fare due passi? Sì, è uscito e Polly via con una paura da morire. Si arrampicò su per il seggiolone della zia urlando mentre io davo la caccia al ragno. Piglialo, piglialo! È una bugia! Strillò in quel momento il pappagallo e cercò di beccare Lori. Come ti tirerei il collo, vecchio scocciatore, se fossi mio! Esclamò il ragazzo minacciando col pugno il perfido animale, che inclinò la testa da un lato urlando: Alleluia! Dio benedica i tuoi bottoni, tesoro! Sono pronta, disse Amy, chiudendo l'armadio. Tratto quindi un foglio di tasca. Lori, disse, tu devi leggere qui e dirmi se è in regola legalmente. Sentivo che lo dovevo fare, perché oggi siamo qui e domani. E io non voglio lasciare dietro di me un'eredità di rancori e di discordie. Lori si morse le labbra e, voltando le spalle alla ragazza, che attendeva muta e pensosa, lesse il documento seguente con una serietà che, considerando gli errori di ortografia che c'erano, meritava lode. Le mie estreme volontà testamentarie. Io, Amy Curtis March, sana di mente, lascia e leggo come segue tutti i miei beni materiali, ossia, ovvero sia, vale a dire, a mio padre, i migliori fra i miei quadri, abbozzi, carte geografiche e simili opere d'arte, cornici comprese. Lascio ezio a mio padre la somma di $100 che posseggo, da farne l'uso che vorrà. A mia madre tutte le mie vesti, meno il grembiulino azzurro, quello con le tasche, nonché il mio ritratto e la medaglia con tutto il mio affetto. Alla mia diletta sorella Margherita il mio anello di turchesi, se lo avrò, nonché le scatole con le colombe e anche il mio pizzo vero per il collo e il mio schizzo che rappresenta lei da tenere come ricordo della sua bimba. A Joe lascio il mio fermaglio, quello riparato con la cera lacca, nonché il calamaio di bronzo che ci manca il coperchio che lo ha perduto lei. Le lascio anche il mio prezioso coniglio di gesso perché sono pentita di averle bruciato quel racconto. A Beth, se sopravvive a me, lascio tutte le mie bambole e la piccola scrivania, il ventaglio, i miei colletti di lino e le pianelle nuove se non saranno consumate e inservibili quando lei sarà guarita. Le lascio altresì l'espressione del mio pentimento per essermi burlata qualche volta della vecchia Giovanna. Al mio vicino e amico Teodoro Lori lascio il mio albo da disegni, il cavallo che ho modellato io in Creta, sebbene lui dice che è senza collo, e inoltre, in contraccambio della sua grande bontà nell'ora dell'afflizione, gli lascio quella delle mie opere d'arte che preferisce. Per me la migliore è Notre Dame. Al nostro venerato benefattore signor Lawrence lascio la scatola color viola, con lo specchio nel coperchio, che è molto bella per tenerci le penne, e gli rammenterà la fanciulla che non ci sarà più e che gli è tanto riconoscente per tutti i favori che ha fatto alla famiglia, specie a Beth. Alla mia prediletta compagna di giochi, Kitty Bryant, il grembiule azzurro di seta e il mio anello di grani d'oro, con un bel bacio. Ad Anna lascio quella scatola che le piace tanto, e tutto il lavoro di rammendo che avevo da fare, sperando che quando lei lo guarderà di me si ricorderà. Avendo in tale modo disposto di tutte le cose che posseggo, spero che tutti saranno soddisfatti e non diranno male di chi è morto, e confido che tutti ci ritroveremo quando suonerà l'ultima tromba. Amen. Al presente testamento appongo di mia mano la firma e il sigillo. Oggi, 20 novembre 1861, anni domino, Amy Curtis March. Testimoni: Teodoro Lawrence e Estelle Valner. Il nome del secondo testimonio era scritto col lapis. Amy gli spiegò che lo doveva ripassare prima lui e metterci anche il proprio sigillo, come era prescritto. Come ti è venuta questa idea? Qualcuno ti ha forse detto che Beth ha regalato le cose che possiede? Chiese Lori serio serio, mentre Amy poneva davanti a lui un pezzo di fettuccia rossa, cera lacca, candela e piattino. Ella gli spiegò tutto e poi gli chiese preoccupata: perché mi parli di Beth? Oh, mi dispiace di avertene parlato, ma ora bisogna che ti dica tutto. Un giorno stava tanto male e disse a Joe che voleva regalare il suo pianoforte a Meg, l'uccellino a te e la povera bambola malata a Joe, che le avrebbe voluto bene per amor suo. Disse che le dispiaceva di avere così poco da dare e a noi altri lasciava una ciocca di capelli per uno e al nonno tutto il suo affetto. Con questo lei però non intendeva di fare testamento, non ci pensava affatto. E mentre parlava, Lori metteva la firma e il sigillo senza levare gli occhi dal foglio, finché non vi cadde una grossa lacrima di Amy, che aveva nel volto una gran tristezza, ma disse soltanto: ai testamenti ci si può anche mettere una specie di proscritto, è vero? Sicuro, si chiama codicillo. Allora mettine uno nel mio. I miei riccioli voglio che siano tutti tagliati e distribuiti ai miei amici. Me ne ero scordata, ma voglio così, non importa se mi rimarrò brutta. Lori fece la giunta, sorridendo di quell'ultimo sacrificio, il più grande di tutti. Poi, per un'ora, la fece divertire con le chiacchiere e ascoltò con grande attenzione il racconto dei suoi guai in casa della zia. Ma quando egli stava per andarsene, Amy lo trattenne e, tutta accorata, con un fil di voce, gli chiese: c'è davvero pericolo per Beth? Temo di sì. Ma speriamo il meglio. Non piangere, cara. E il suo abbraccio fraterno fu per lei un grande conforto. Uscito Lori, Amy si recò nella cappelletta e, seduta in quella penombra, pregò per Beth con gli occhi pieni di lacrime e il cuore addolorato. Neanche un milione di anelli di turchesi l'avrebbero consolata se avesse perduto la sorellina.